Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza Impariamo a volerci bene su Questo Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e faccio parte dell'associazione Energicamente. Nella scorsa puntata vi ho parlato del Rescue Remedy, dei fiori di Bach. In questa di oggi, come vi avevo già anticipato, vi parlerò dell'Emergency, il cugino australiano del Rescue Remedy. E da breve ho iniziato un nuovo corso, appunto alla Green Remedies, che è il rivenditore dei fiori australiani dell'Italia in Italia sui fiori australiani, e quindi vorrei condividere alcuni aspetti dell'Emergency con voi. L'Emergency è composto dai fiori australiani del bush, Australian Bush Flowers Essences, per i momenti di emergenza. Ha un effetto calmante immediato sulla mente, sul fisico e sulle emozioni, anche durante le crisi di grave entità. Se necessario un intervento medico specifico, Emergency diviene un prezioso rimedio di emergenza fino a quando il trattamento medico non sarà disponibile. Scopriamolo meglio. La composizione di Emergency, composto e costituito dai seguenti fiori: Angelsword, la spada dell'angelo, e la parola dell'angelo, Angels Word. Questa essenza offre protezione da influenze esterne di qualsiasi tipo e aiuta a riparare e pulire ciò che è già entrato energicamente nel nostro campo personale. Crowea, presente in molti composti per la sua azione calmante sulla mente e sul corpo, che dona un'intensa sensazione di benessere, quiete ed equilibrio. Dog Rose of the Wild Forces aiuta a controllare le emozioni più intense, in particolare quelle che respiro in una situazione, in un ambiente, quelle attorno a me. Per esempio, l'esercizio che ascolto, il panico in una situazione di emergenza. Il fiore dona calma e equilibrio emotivo, capace di controllare l'intensità dei tumulti interiori o le manifestazioni esteriori degli stessi. Fringed Violet è un altro rimedio di protezione, in particolare nel campo energetico personale, l'aura, dagli effetti di radiazioni elettromagnetiche e farmaci, eccessivo uso della tecnologia, PC, smartphone, cellulari, eccetera, e da tutto ciò che può indebolire le nostre energie. Grey Spider Flower è l'essenza specifica per le paure estreme, il panico immobilizzante, il terrore che non riusciamo a controllare. Aiuta ad acquisire fiducia, calma e coraggio. Sandev è specifico per la dissociazione, quindi la depersonalizzazione, intese come difese dalla realtà in caso di paure, pericoli reali o percepiti. Sandev ci ricollega alla realtà con il suo lungo stelo sottile ma forte, così da riprendere in mano la situazione e trovare la strategia per migliorare e affrontare quel momento. Waratah, conosciuto come il fiore della sopravvivenza per la sua forza naturale, il suo colore rosso sangue, la forma a cuore del suo fiore, dona coraggio, tenacia, fiducia, capacità di adattamento e forza di sopravvivenza. Nelle formulazioni in crema e vaporizzatore sono inseriti anche Slender Rice Flower, che dona tolleranza, flessibilità, desiderio di ascolto attivo, collaborazione per il bene comune. Questa essenza aiuta a portare in un gruppo armonia e cooperazione, a favorire disponibilità e armonia, permettere di vedere le diverse sfaccettature di una questione, di una situazione. Spinifex, che ha un'azione di pulizia, può essere quindi un ottimo coadiuvante in caso di candidosi, infezioni fungine e herpes. Può essere applicato come topico sulla pelle per acne ed eczema. Prendendo il rimedio per bocca, aiuta a fermare in superficie le emozioni che causano le vesciche della pelle. I problemi emozionali poi possono essere risolti con l'essenza floreale appropriata. La pelle è uno schermo di protezione del nostro mondo interno che non esprimiamo. Consigli per l'uso dell'Emergency: gocce, 7 gocce sotto la lingua mattina e sera al risveglio e prima di addormentarsi, 7 gocce al bisogno durante il giorno, quindi anche ogni 15 minuti finché non ci calmiamo. Spray orale, 2 spruzzate sulla lingua. In una situazione di emergenza, 7 gocce o 2 spruzzi a distanza di pochi minuti, fino a trovare la calma per gestire quel momento fino all'arrivo dei soccorsi, per esempio. Si possono anche applicare su tempi, labbra e polsi. Per Tale combinazione è specialmente adatta per vissuti di paura, panico, per gravi stress mentali e fisici, tensione nervosa e dolore. L'utilità di questa combinazione copre svariate esigenze, che spaziano dall'ansia preesame agli incubi notturni a stati di agitazione. Come per stress stop, è uno dei composti che si possono assumere al bisogno, da solo o contemporaneamente ad altri composti o preparazioni personalizzate. La crema e lo spray ambiente corpo fanno parte della linea Love System, di prodotti per la pelle con ingredienti naturali e biologici. Lo spray è un'eccellente formulazione biologica per viso corpo da utilizzare durante i periodi di stress, per idratare, tonificare e nutrire la pelle e il livello emozionale grazie agli estratti di erbe ed essenze floreali. La crema è un ulteriore sostegno. Vaporizzare delicatamente sul viso, proteggendo gli occhi e corpo, o applicare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e con i polpastrelli massaggiare con una lieve pressione sulla pelle. Nell'ambiente vaporizzare per una qualsiasi situazione carica di tensione, come una difficile discussione, momenti di tristezza, eccessi lavorativi, ipercinesi e in qualsiasi situazione che necessiti immediato intervento. Nella scorsa puntata vi avevo detto che non sono molto d'accordo con i rimedi già prefabbricati. Questo invece non vale per quanto riguarda le essenze combinate preparate da Ian White degli Australian Bush Flower Essences. Queste sono un ottimo rimedio, soprattutto per chi non ha tempo per farsi fare una consulenza personalizzata degli australiani o dei fiori di Bach, per sopperire nei momenti di emergenza. Esistono n.000 combinazioni, vengono scoperte ogni anno e vengono commercializzate diverse combinazioni e nuove, e quindi guardate bene sul sito dei fiori australiani e scegliete la combinazione adatta. L'unica cosa che vi posso dire è cercate di non fare un miscuglione di troppe cose insieme, perché altrimenti troppi fiori rischiano, diciamo, di non portare il beneficio che ci si aspetta. Per oggi è tutto, ma prima di salutarvi, come sempre, vi ringrazio e vi lascio i nostri contatti. Il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono: Francesca 340-2345-340, Franco 329-8989-669, Elisa 339-3860-123. Ricordatevi di mettere anche un mi piace sulla nostra pagina di Facebook. Prima di lasciarvi, vi auguro un buon weekend, alla prossima puntata, e ringrazio Davide e Giorgio per la bellissima opportunità.